vita che detesta. Brindo alla semia, all'ubriacone, a chi fa una vita saggia e muore di disperazione. Brindo a chi lotta e a chi si arrende. Brindo a chi è curioso e si ammazza di domande. Che sono sempre frigo, ma state caldi che io me ne sto tranquillo. Il mio non è un problema di alcolismo, se avete ben capito, il mio è semplice altruismo. Morti delle guerre, e brindo ai vivi, e brindo al tempo che scorre, brindo al fanatico, all'artista, al religioso che diventa un terrorista, brindo a chi crede di essere pazzo, e brindo a Dio che ormai ci guarda con